No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusas. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Abajo, menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, cabrón, ni una menos. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Buonasera, ribelli del mio cuore. Siamo in diretta. Vorremmo capire se funziona. Qua dalla regia ci suggeriscono che sta funzionando tutto. Si sente benissimo. Sì, abbiamo comunque uno storico tecnico di certi problemi. Però questo fa parte dell'essere ribelli. Brava Ibna, è così che ti voglio. Bene, sono le 17:13. Oggi è una bellissima giornata di sole. Eh sì, Milano ci presenta il sole ogni tanto. E siamo in diretta su Radio ZM e le compagne ribelli vi travolgeranno in questa succulenta puntata ricca di contenuti. Quindi direi non schiodatevi dal divano e presentiamo subito le compagne ribelli presenti in regia. E abbiamo Andrea alla mia destra. Ciao a tutti! Con una grande regia. La new entry. Eh sì, sì, stiamo cominciando ad essere ribelli ufficialmente. E poi abbiamo Giulia in collegamento Zoom, che al momento non so se parla, forse è riuscita a sentirla. Giulia, prova a dire qualcosa, vediamo se il pubblico ti sente. No, Giulia ci saluta. Giulia ci manda un bacino a tutti, a tutto. Esatto. E niente, io direi che prima di cominciare vorrei ricordare immediatamente i canali social per poterci scrivere, per poterci contattare. Allora, abbiamo la pagina Facebook Radio ZM, poi il canale Telegram per scriverci in diretta, per farci qualsiasi domanda, insomma disturbarci durante la diretta, chiocciola Radio ZAM trattino basso chat. Il fantastico sito web www.zam-milano.it, la pagina Instagram che è molto bella. Molto, però questa è la pagina Instagram che starò per dire, quella di ZAM, che è Radio ZAM Mi Sud con due M. E poi abbiamo Insta Ribelli. Ecco. Le trattino basso ribelli, trattino basso ZAM. Bene, dovrei averli detti tutti. Bravissima, Teca, bravissima. Preparatevi, sarà una puntata incredibile. Siamo le più giovani di delle ribelli. Delle ribelli, poi ci stiamo provando, ci hanno lasciato da sole. Ma ci hanno lasciato, in realtà ci hanno lasciato da sole la regia, ma poi noi siamo, esatto, siamo sì, super sul pezzo. Quindi o no? ci stiamo provando insieme, ci proveremo, supportateci voi. Esatto, fateci sentire anche sui canali social, così sappiamo tutte quello che sta succedendo nel mondo fuori, qua dentro. Vabbè, comunque vi terremo compagnia in questo splendido pomeriggio di sole in quel di Milano. E bene, io prima di iniziare vorrei anche ricordarvi, visto che non una di meno ci teneva che noi, esatto, ricordassimo questa cosa, perché domani, lunedì 1 marzo alle ore 21, non una di meno trasmetterà in diretta anche sul nostro canale, quindi Sex Work is Work, dove si parlerà di prostituzione, stigma, sfruttamento, lotte, e progetti e alleanze. Benissimo, il mio PC si è bloccato. No, scherzo. E tutto ciò verso lo sciopero femminista e transfemminista globale dell'8 marzo. Mi mangio le parole, porca vacca. E sì, vi abbiamo sui nostri social, trovate già pagina caricata con tutti i link di riferimento nel caso in cui appunto voleste seguirlo, e niente, vi invitiamo ovviamente a essere sempre sul pezzo in questo periodo, perché ci stiamo avvicinando all'8 marzo e anche l'anno scorso ci siamo privati di questo momento, quindi uniamoci tutti ancora insieme anche quest'anno. Ma entriamo, dimmi. No, ti dico Andre. Allora, io direi che adesso, ladies and gentlemen, signore e signori, mettiamo due brani, facciamo partire due pezzi, così, giusto per scaldarci un po'. E allora, a voi Freedom di Beyoncé. Aries, I meditate for practice. Channel 9 News tell me I'm moving backwards. 8 blacks left, death is around the corner. 7 misleading statements about my persona. 6 headlights waving in my direction. Come on. 5-0 asking me what's in my possession. Yeah, I keep running, jumping the aqueducts, fire hydrants and hazardous smoke alarms on the back of us. But mama, don't cry for me, ride for me, drive for me, live for me, breathe for me, sing for me, honestly guiding me. I can be more than I gotta be, stole from me, lied to me, nation hypocrisy, gold on me, driving me wicked. My spirit inspired me like, yeah. Open correctional gates in high desert. Yeah. Open our mind as we cast away oppression. Open the streets and watch our beliefs. And when they carve my name inside the concrete, I pray it forever reads. Freedom, freedom, I can't move. Freedom, cut me loose. Freedom, freedom, where are you? 'Cause I need freedom too. I break chains all by myself. Won't let my freedom ride in hell. Hey, I'ma keep on running 'cause the winner don't quit on themselves. Amy Poehler speak at the White House. Her words hit me hard like a light bulb. Fictitious depictions of girls must die out. If we want to live in a world that triumphs, I am just talking about loving the femme. I ain't talking about nobody else. Toxic masculinity has to end. I'm just talking about loving ourselves. You can't catch me singing these words in a black, other, white, futures, female t-shirt. Like, hey, me, I got something to say. Gender construction just get in the way. I've been playing drums since I was like 8. The future is female, that future is great. I know a ones moving culture. What would happen if we all believed with a little less aggression, more femininity? We have to value girls more than their looks. The biggest threat is a girl with a book. The system must make room for all that we do. We've been bleeding each month till we gave birth to you. You know, to me, the future is female means that no longer will female qualities be subordinated to male qualities. I want to live in a world that is collaborative, a world that is emotionally intelligent, a world in which we are linked and not ranked. The future is female. che bring it back. To the Madame Gandhi Voices EP, elevating and celebrating the female voice. The future is female. E bentornati e bentornate. Eccoci su qua. Radio Ribelli. Questo sono... era The Future is Female di Madame Gandhi. Sapete chi è? Sapete ma che cos'è no. che ha scritto lei? No, in realtà è interessante questa canzone perché appunto parla di quello che, di cui stiamo andando a parlare adesso. È per questo che l'abbiamo messa. Quindi grazie Lady J. Grazie Lady J che sei sempre con noi anche quando non ci sei. Eh sì, the future is female, il futuro è donna, femmina. Femmina. Esatto. È donna, ragazzi, è donna. Sono le 17:27, c'è sempre il sole fuori e direi che non si muove da là. E direi che adesso possiamo entrare nel clou della nostra puntata. Mm-hmm. E introduciamo un po' le tematiche di oggi, cari ribelli. Allora, come ogni mese, eccoci qua con la nostra rubrica, se possiamo chiamarla così. La rubrica di Sofì. Di Sofì, ma è anche la rubrica dedicata a tutte le bambine e i bambini del mondo. Ecco. Perché si parlerà di educazione alla lettura. Tutto ciò ovviamente in chiave femminista. E leggeremo fiabe per bambini e per bambine che si svincolano dagli stereotipi di genere. E come potremmo dire, ragazze, daremo dei consigli. Consigli di lettura, consigli di chiave di lettura della lettura. E quindi via le principesse, via il principe azzurro e via la disuguaglianza e la supremazia fra i sessi. Giusto, ladies? Giusto, giustissimo. Giusto. Vediamo come arrivarci attraverso le fiabe e le storie. Sì. Perché alla fine ricordiamoci tutti che tramite l'educazione, anche la lettura banalmente, noi già in... andiamo a costruire la nostra personalità, quindi andare a controllare quello che anche va letto ai nostri bambini e ai nostri alunni, insomma è fondamentale, dare una possibilità diversa, perché alla fine di questo che si parla anche all'interno delle storie è necessario, perché non dobbiamo sempre pensare che sia il principe che arrivi qualcun altro in generale, o il principe azzurro, o anche per i bambini qualcun altro, ma possiamo essere anche noi gli eroi di noi stessi o le eroine di noi stesse. Sì. Wow. Beh, Andre, sì, oggi sono troppo top. Boom. Oggi sei ispirata, sono brava. È così che ti voglio. C'è Giulia che ride. Bene, ragazzi, allora, come ogni mese avremo la nostra ospite d'onore, la nostra apripista. E chi meglio di lei può consigliarci delle letture? Chi meglio di Sofì? Della nostra piccola Sofì, ormai il pubblico si ricorda. Infatti ci hanno anche scritto, Sofì, se ci stai ascoltando, che adesso sarai con noi, sappi che hai già i fan. Esatto. Sì. Bene, Sofì, io... 7 anni? 8 anni? Quanti anni ha Sofì? Sai che io non mi ricordo, adesso glielo chiediamo. Adesso glielo chiediamo. Dai, chiamiamola. Vado, parto. Chiamiamola la mamma di Sofì. Ovviamente gestisce il nostro rapporto. Io non sento suonare. Ora sì. Pronto? Eccoci. Pronto, Virgi, ci senti? Ciao, sì. Bentornata, Virgi. Ti sento. Ok, stiamo cercando. Sì. Ok. Stiamo cercando di capire se anche i nostri ascoltatori vi sentono, le nostre ascoltatrici. Ok. Allora, inizia un'altra puntata? Sì. Noi siamo molto contente di partecipare. Come al solito c'è molta fibrillazione. No, infatti vi ringraziamo tantissimo per questa partecipazione, perché sentire la voce di una nuova bambina e donna che cambierà il mondo è fondamentale per i nostri ascoltatori e ascoltatrici, ovviamente. Ma quindi la... è fondamentale il divertimento, insomma, sì. Lei anche, insomma, non sappiamo se cambieremo il mondo, di sicuro lo miglioreremo. Assolutamente. E intanto ci divertiamo. Ma certo, sì. Ma è così che si cambia il mondo, divertendosi. Ma senti Virgi, la piccola Sofì, io so che si è preparata una storia per oggi. Sì, lei come al solito ha cercato nella sua libreria e ha spulciato un po' i libri che ha, e dentro uno di questi libri ha trovato una storia che conosceva già, perché l'aveva già sentita e ha pensato che fosse proprio insomma perfetta per il titolo che voi avete dato alla, a questa puntata, e quindi l'ha identificata un po' come valida. Dai, allora io non vedo l'ora di sentire la vocina della Sofì, perché ormai è la nostra protagonista, lo sa lei ormai che cioè, se non c'è Sofì nella puntata su, per i bimbi e per le bimbe non parte praticamente. Finché dura ci siamo. Ma la faremo venire qua. Vai. Che bello. Ah beh sì, caspita, sarebbe super emozionante vedere come funziona direttamente dal vivo la radio. Guarda Virgi, appena si potrà Sofì verrà qui in diretta, ne mettiamo il microfono e vai. Fortissimo. Vai, adesso passo il microfono a Sofì. Ciao! Ciao Sofì! Ciao Sofì! Bentornata sulle Ribelli! Ciao! Sei in diretta? Ciao. Sì. Come stai? Bene. Senti Sofì, allora noi sappiamo che ti sei preparata la solita storiella da raccontarci, vero? Sì. Allora, quando vuoi, la radio è tutta tua. Ok, allora subito. Vai, ormai. Ormai le abituali. Ma Sofì, prima che inizi, così ci chiedevamo, ma tu quanti anni hai esattamente adesso? 10. 10. Oh, ma sei grande. Stai crescendo. Patatina. È cresciuta con noi, Sofì. È cresciuta con noi, è una piccola ribelle come noi. Beh, in effetti è vero. Eh sì, perché Sofì, tu sei la nostra piccola ribelle. Vai Sofì, a te la voce, il palco è tuo. Vai. E il titolo è La fiaba dei 1006 pianeti. C'era una volta Federico era un bambino come tanti. Non era bellissimo, a scuola non era il primo della classe e non era un campione di scherma. Era invece un bimbo molto sveglio e di lui, come tanti bambini, dicevano «È in gamba, è un tipo con gli occhi aperti». Avevano ragione, Federico era così sveglio che non sbadigliava mai in faccia al mondo, perché lo guardava con curiosità, da sempre. Il mondo se ne accorse e ne era così contento che un bel giorno chiamò i suoi consiglieri, Paraquale e Perichiù e lì, e disse loro: andate da Federico e ditegli che gli farò un regalo bellissimo se soltanto saprà capire il segreto dei bambini del mondo una volta per tutte. E tirò fuori dalla tasca un minuscolo biglietto giallo sul quale era scritto: segreto dei bambini del mondo. Tutti i bambini sono diversi, ma tutti sono uguali. I consiglieri pensarono che quel biglietto era strano, troppo strano. Pensarono che anche l'idea del mondo era strana. Era una pazzia delle solite. I consiglieri lo guardavano in silenzio e seri. Ma il mondo disse: andate da Federico e ditegli che gli farò fare il giro dei 1006 pianeti e delle tante età. Ma è un regalo che non avete mai fatto a nessuno. Ma è un giro lunghissimo e larghissimo. Ma quel bimbo perderà scuola per 2 o 3 milioni di anni. Ma rischierà di prendersi il raffreddore almeno 100 miliardi di volte, ma il mondo tuo no. Ma che raffreddore, scuole legna d'altra sorta. Quel bimbo, lui sì, capirà quel che importa. I grandi non hanno badato al segreto, ho bisogno di lui per essere ascoltato. E sorride, e sorridendo aggiunse, scusatemi se poco, e trovatemi Federoco. I consiglieri trovarono Federoco nella strada davanti a casa. Gli dissero del regalo del mondo. Gli mostrarono il biglietto con il segreto. Gli chiesero con sguardi severi se aveva capito bene. Federoco rispose, non ho capito nulla, ma farò il giro, lo farò tutto e forse alla fine, se non riesco, renderò tutto al sonno e sarà come se non lo avessi fatto. Dimenticherò e si mise in cammino, lasciandosi alle spalle i volti sempre preoccupati e seri dei consiglieri, stringendo nella mano destra il bigliettino giallo e in quella sinistra un sacco vuoto. Il giro cominciò. I pianeti che Federoco visitò, con buona pace del suo maestro, erano tantissimi, più di 1000. E le età che Federoco visitò erano così diverse, così strane, fatte di storie mai raccontate dai libri. Pianeta dei peli rovesciati, bimbi senza scarpe. Pianeta degli orologi senza lancette, bambini senza fretta. Pianeta degli odori, pianeta con i nasi all'insù. Pianeta del punto di domanda, bambini domandati. Pianeta dell'allegro caos, bambini sparpagliati e parapiglie. Pianeta dei pennelli che dipingono i discorsi, bambini dottori. Bambini pittori. Pianeta delle altezze e della profondità, bambini sulle cime e sui picchi. Pianeta delle bugie sincere, bambini, figli di amici. Pianeta delle corse di gentilezza, bambini poeti. Pianeti dei ma, bambini con dubbi. In ogni pianeta Federoco faceva amicizia con i bambini che incontrava, faceva merenda con loro, faceva loro domande, faceva un disegno dove scriveva «Pianeta vatte la pesca». I bambini così e cosà. Teneva gli occhi ben aperti e prima di andarsene si chinava e raccoglieva da terra qualcosa. Sempre prima di andarsene raccoglieva qualcosa e lo metteva nel suo sacco. Il giro sembrava non finire mai. Ma il sacco di Federoco non si era ancora riempito e il biglietto giallo, dove era scritto il segreto dei bambini del mondo, continuava a essere giallo e a essere un segreto, stretto nella mano di Federoco. Arrivato al 1600° pianeta, prima di ripartire, Federoco si chinò e raccolse da terra qualcosa e si vide chiaramente che aveva raccolto un'ombra e l'aveva messa nel sacco. Fu in quel momento che il mondo gli si fece davanti e disse: ciao Federoco, sei arrivato, infine. Ora devi riportare sulla terra il segreto oppure restituire il giro al sonno e dimenticarlo per sempre. Federoco ebbe una gran paura nel cuore e una grande confusione nella testa. Era chiaro soltanto che non voleva dimenticare, non voleva perdere tutti gli amici di quel viaggio fantastico. Senza dire una parola, vuotò il sacco ai piedi del mondo. Il mondo era lui a non capire. Allora, bambino nostro, ai suoi piedi era una foresta di ombre sottili e bracciate. Insieme a Federoco, la foresta sussurrava: signor mondo, ecco i tuoi bambini, siamo noi, ci hai voluti tutti speciali, nessuno di noi è identico ad un altro. Noi tutti abbiamo sguardi diversi con cui starti a guardare, ma le nostre ombre sono tutte uguali, Sono tutti alberi ugualmente vivi, alti e belli. Di questa foresta ognuno di noi è un tuo bambino. Siamo tutti bambini del mondo. Il mondo sorrise, il segreto era stato capito. Anche Federico sorrise, aveva capito un segreto e non lo avrebbe restituito al sonno. Fine. Wow. Siamo tutti bambini del mondo, Sofì. E siamo commosse dalla tua narrazione, veramente. Ottima scelta. Complimenti. Poi, questa capacità di sapere esprimere quello che noi andiamo cercando. Di... Sì, tutto racchiuso in una storia bellissima. Veramente ci viene da dire, Sofì, grazie, perché sei già una contadora di storie, veramente, grazie. Senti, Sofì, ma cosa ti ha colpito di questa storia? Sì, allora, prima di tutto l'avevo già letta a scuola quando si dovevano fare, cioè quando si dovevano mettere i calzini diversi, cioè calzini pagliati. Ho capito, interessante, ti è piaciuta questa esperienza? Di mettere i calzini diversi? Sì, mi è piaciuta. Io lo faccio ancora adesso, Sofì. Anche le scarpe ogni tanto. Ci sta, no? Ci sta, di un colore all'altro. E poi, insomma, questo bambino ha fatto un sacco di conoscenze nel suo viaggio, giusto? Ha visto tanti mondi diversi. Quindi, Hai toccato uno dei punti fondamentali della nostra tematica di oggi. Sì, sì, è vero. Hai passato per 1000 pianeti assieme a lui, no? Come hai vissuto questa esperienza? Beh, come l'ho detto, cioè, mi è piaciuto, molto. Ok. Ma secondo te, visto che qua alla fine non abbiamo un eroe, un'eroina che compiono un'azione, ma è che differenza c'è stata secondo te? Perché proprio questa storia ti ha colpito? Che differenza c'è secondo te tra le altre storie che magari leggiamo a volte con i protagonisti, ecco, che c'è sempre qualcuno che vince o prevale sugli altri? Allora, cioè, in che senso? Infatti, beh, magari però... sono un po' prolisse, sono un po' lunghe. No, nel senso, secondo tu hai notato che questa storia non ha un... beh, effettivamente però Sofì legge sempre storie un po' fuori dagli schemi sì. Che effettivamente l'avranno resa anche una bambina con una soggettività molto esatto. Forte e molto aperta verso però il mondo. Se noi leggiamo le storie solite che ci vengono lette, di solito c'è sempre un protagonista che agisce, c'è un antagonista, c'è una... No, dirla. Cioè, sì, no, ti sto seguendo, sto cercando di capire come fare per formulare questa domanda in maniera semplice. Perché è interessante, Sofì, perché noi ci siamo accorte che quelle storie che tu ci racconti in realtà sono un po' diverse dal solito, perché non hanno questa storia, questa sorta di eroe megalomane che salva tutto, no? Non c'è la principessa con il suo principe azzurro, per dire, per esempio. Esatto, anche. Giusto? Sì. Ti ci ritrovi in quello che stiamo dicendo? Ma tu leggi sempre storie di questo genere? È la domanda. Sì. Così? Alcune volte. Però magari a scuola ti raccontano delle storie diverse da queste, delle fiabe diverse. Cioè, in questa storia non c'era niente da vincere, cioè che non ci doveva essere un antagonista, un protagonista cattivo. Cioè, c'era solo un segreto da capire, da scoprire, e quindi vincevano tutti. Che bello, Sofì, che bello. È bravissima. Così che... Esatto. È questo che volevamo sapere, perché sì, è un po' quello che ci è sembrato a noi, visto che ci hai proposto questa storia, è che il focus è di... che forse la conoscenza ci rendere più liberi e al posto di una vittoria, di vincere, ottenere qualcosa, ecco. Sofì, sei una ragazzina, una bambina davvero sveglia, guarda, complimenti per le tue risposte, sei grandiosa e non vedo l'ora di conoscerti, sai, devi dire alla tua mamma che la prossima volta verrai qua in radio. Giusto, mamma, okay. Mamma di Sofì, che ci sei? Virginia. Sì, sicuro. Ti mettiamo le cuffiette, il microfono e ce la leggi in diretta la storia la prossima volta. Fai un'intera puntata con noi. Eh sì, vogliamo in direzione con noi, assolutamente. Vabbè, sarebbe emozionante. Senti, Sofì, ci ripeti per favore il titolo della storia e il libro da dove l'hai presa? Perché così noi pubblicheremo dei post sui nostri canali social. Sì, perché sappi che è in preparazione la vera rubrica di Sofì. Abbiamo deciso di dedicarti una rubrica sulle ribelli perché ormai ci ha dato talmente tanti spunti di lettura e talmente tanti titoli che ci sembra necessario creare un piccolo archivio per... che raccolga le tue, insomma, le tue fiabe, consigli, ecco. Sì. Allora, il titolo è La fiaba dei mille e sei pianeti. Poi il libro si chiama Il libro dei dritti dei bambini, però ci sono tante altre storie. Ho capito. E quindi ci sono tante storie in questo libro. Mm-hmm. Esatto, non c'è solo questa storia. Va bene, fa niente, guarda, magari sono tutte dello stesso genere, però magari un po' si assomigliano. Non lo so. Vabbè, pazienza, lo leggeremo, non ti preoccupare. Leggeremo insieme magari, piano piano lo leggeremo tutte esatto, insieme. Esatto, nella tua rubrica ci sarà spazio comunque, non ti preoccupare. Va bene, okay. Va bene, Sofì, allora ti ringraziamo tantissimo, grazie Sofì, grazie Virgi, come sempre. E... grazie a voi per averci invitate e farci divertire, insomma. Spero vi sia piaciuto. E... molto, noi rimaniamo in ascolto. Rimanete in ascolto, sì, perché ci saranno altre storie, altri consigli, altre cose particolari. Oggi sarà tutto sulla lettura. Eh sì. Esatto. E allora vi salutiamo e vi dedichiamo le prossime canzoni. Allora, questa è Kids di MGMT. Ciao. A baby is born. so pazza, io so pazza, e voglio essere chi voglia, uscire fuori da casa mia, io so pazza, io so pazza. Oh, il popolo che mi aspetta, e scusate vado di fretta, non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore, e alla vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché sono pazzo. Questa era Gesù Pazzo, versione di Mina. Ragazzi, è pericolosissimo lasciarmi la scelta della musica dalle playlist di Jessica, perché sì, qua niente Mina, questa era, non c'entrava niente con la puntata, però mi piace un casino, quindi ve la siete beccata. Io oggi sono elettrizzata. Ma perché sono incazzata? Probabilmente per questo. Ma infatti vedi la radio, ladies, care ladies, è terapeutica. Eh sì. Terapeutica per chi ci ascolta, è terapeutica per noi. Sì. Vabbè, bando alle ciance, io direi andiamo avanti che sennò ci perdiamo. Esatto. Sono già le 17:58. Allora, dunque, io vi ho portato un consiglio di lettura. Perché qualche mese fa, mentre pensavo alla nostra puntata, mi è capitato fra le mani questo libro che si intitola Storie della buonanotte per bambine ribelli. In realtà questo libro è una trilogia, ce ne sono altri tre con lo stesso titolo, anzi mi sa che gli altri sono addirittura dedicati anche ai bambini, ai bimbi, cioè bambine e bambini. Quindi, dicevo appunto, una trilogia dell'autrice Francesca Cavallo. Lei si definisce femminista, attivista e imprenditrice. Imprenditrice perché? Perché ha fondato una casa editrice, che è ormai famosa quasi a livello internazionale, che si chiama Undercut Media. E la potete trovare su Instagram. Mm-hmm. Se voi scrivete su Instagram Undercut Media troverete lei, Francesca, con tutti i suoi lavori, gli ultimi suoi libri. Tra l'altro ha scritto un libro proprio adesso, durante la pandemia, del quale non ricordo il titolo al momento. Forse la nostra Giulia se lo ricorda. Sì, era il Dottor Ling. il dottor Lee. Ciao Giulia, la tua voce si sente. Ciao, finalmente. Sì, salutiamo. Ti saluto. È vero, siamo riusciti a collegarti. Attenzione, ci sono. Abbiamo un'altra ribelle che si nascondeva durante la puntata. Sì, vi saluto sempre da Edimburgo, e sono sempre da qua. E allora, dottor Lee, The Crowd Wearing Virus. Quindi è un libro dove lei, appunto, non l'ho letto purtroppo, però racconta del primo dottore che ha annunciato il coronavirus e che poi è stato purtroppo imprigionato anche dal governo cinese. Uh-huh. E quindi è un libro legato alla pandemia, sempre però si focalizza sempre sulla diversità. Esatto. E anche legato, se non mi sbaglio, agli attacchi che la comunità cinese hanno ricevuto in tutto il mondo a seguito della diffusione del coronavirus. Quindi attacchi razzisti verso una comunità che magari viveva a 1000 chilometri, esatto. 2000, 10.000 chilometri di distanza, eppure sono stati appunto colpiti anche i bambini a scuola, purtroppo, da commenti d'odio da parte degli altri bambini di altre nazionalità. Esatto, grazie Giulia per il supporto. E niente, insomma, Francesca comunque ha fatto un gran lavoro in tutto ciò, ha affrontato un sacco di tematiche ed è importante, secondo me, usare questo strumento che è quello della lettura per insegnare, educare i bambini alle tematiche di genere. Sì, non solo, cioè non dobbiamo mai sottovalutare quanto l'educazione alla lettura e quanto la lettura di per sé sia importante in un cammino, in una chiave pedagogica, perché ci raccontiamo le storie da quando il mondo è mondo, da quando l'umanità si raggruppa. E quindi ogni storia è una metafora, quindi crea una ponte da chi la racconta alla persona che la riceve, no? Quindi c'è sempre un messaggio e non bisogna dimenticare mai che i messaggi vanno studiati e non sottovalutati, ecco. Il racconto comunque viene dalla parola favola, no? Cioè l'origine dal latino fabula, che è una narrazione. E ogni narrazione ci porta, appunto, come stavamo dicendo, e come ci ha portato anche Sofì con le sue bellissime parole, col suo tono di voce magico, possiamo dire. E questo fa sì che abbiamo un viaggio assieme, facciamo un viaggio assieme, no? Il suo messaggio, tutti diversi e tutti uguali, sono delle forme in cui il bambino, ma non solo il bambino, ognuno di noi, i nostri bambini dentro di noi, fanno esperienza, no? Come cominciamo a percepire il mondo. Quindi è una cosa che le fiabe, le storie, le narrazioni ci rivelano, ecco. E penso che con questo, le bambine ribelli, abbiamo una possibilità di rimettere sotto luce delle donne della nostra storia, di tutto il mondo. Infatti adesso ci racconti tu, che hanno compiuto grandi imprese. Esatto. Ma anche perché in realtà anche in questo libro vengono raccontate per intero delle storie di donne che vengono lasciate un po' a metà, nel senso che, per esempio, all'interno nell'educazione della storia dell'arte, della storia, ma anche delle scienze, insomma, di tutto quella che è la nostra conoscenza, ci vengono raccontate delle storie a metà, ovvero non dando delle considerazioni a chi magari è stata realmente l'inventore o l'inventrice, a chi è stata proprio, per esempio, ci tenevo perché ovviamente sono una prof di arte, scusate, dai, brava. Va bene. La storia sarà su Artemisa Gentileschi e in questo caso lei, per esempio, la dinamica che lei era una seguace di Caravaggio e il padre alla fine firmò quasi tutte le sue opere, abbiamo soltanto una piccolissima parte sua, perché ovviamente era una questione di prezzo, banalmente. Fortunatamente lei poi ha subito violenze e è stata una delle prime donne a denunciare, e facciamo conto più o meno, siamo nel 600 più o meno, E insomma è interessante anche raccontare la sua storia, che è stata in realtà raccontata in epoca molto recente. Lei è stata sconosciuta per un sacco di tempo, e così è la storia di tantissime scrittrici, tantissime artiste donne, che rimangono, tu vai a vedere, esistono fino a un certo punto, quando poi effettivamente diventano brave o dimostrano le loro capacità, casualmente cambiano nome. Il loro nome sparisce e niente, non si trova più niente. Quindi è bello anche che insomma venga data voce a tutte queste persone e venga fatta una bella ricerca anche su questo. Quindi a te il palco è tuo. Un po' Gio Bastianic. Grazie Andre, grazie dell'introduzione. Hai fatto un'ottima introduzione, breve ma intensa. Prego, prego, prego. Allora, andremo a leggere Artemisia Gentileschi. C'era una volta una ragazza che era una pittrice straordinaria. Si chiamava Artemisia ed era bella e forte. Anche suo padre Orazio era un pittore. E fu lui a insegnarle il mestiere nella sua bottega fin da quando era piccola. A 17 anni Artemisia aveva già dipinto diversi capolavori. Eppure la gente era scettica. «Come fa a dipingere in questo modo?» mormorava. All'epoca la maggior parte delle donne non poteva nemmeno avvicinarsi alle botteghe degli artisti. Un giorno suo padre chiese a un amico, il famoso pittore Agostino Tassi, di insegnare ad Artemisia la prospettiva, cioè il modo in cui gli artisti riescono a creare uno spazio tridimensionale su una superficie piatta. Artemisia divenne la sua allieva più brava, ma Agostino voleva che fosse anche la sua amante. «Prometto che ti sposerò», le diceva, ma Artemisia continuava a rifiutare. Le cose peggiorarono al punto che Artemisia alla fine riferì tutto al padre. Orazio le credette, e anche se Agostino era un uomo potente e un nemico pericoloso, lo denunciò alla giustizia. Durante il processo, Agostino negò di averle fatto del male. Artemisia subì delle pressioni terribili, ma rimase fedele alla verità e non si arrese. Alla fine Agostino fu riconosciuto colpevole. Oggi Artemisia è annoverata tra i più grandi pittori di tutti i tempi. Quindi secondo me vediamo come bisogna introduciamo un'altra tematica qui, quella della fiducia. Sono donne che hanno avuto fiducia in se stesse. E quindi è un po' anche poi il messaggio che vuole darci un po' tutta la trilogia di questi libri, no? Donne che hanno avuto fiducia per quello che hanno fatto e sono arrivate poi ad ottenere una propria identità, identità che spesso le è stata negata, esatto. Tra l'altro una cosa che non ho detto prima è che questi libri, questa trilogia appunto, è quello che ha avviato Francesca Cavallo grazie a un crowdfunding, giusto, si dice così, crowdfunding. come vuoi, c'è libertà. E quindi loro avviando questo progetto, questa raccolta di fondi, Francesca è diventata famosa in questo modo. E volevo leggere anche una citazione che troviamo dietro al libro, che dice: il libro che ogni bambina e giovane donna dovrebbe avere sul proprio comodino. Queste favole della buonanotte sostituiscono le principesse con donne che hanno cambiato il mondo. Beh, aggiungerei anche i bambini, sarebbe interessante che lo leggessero, perché in realtà... Ma infatti, scusami se ti interrompo Andre, nell'introduzione del libro Francesca riporta alcuni commenti che sono stati inviati dai genitori di mamme che leggono appunto queste storie ai propri figli, ma non solo alle bambine, ma anche ai bambini. Cioè ovviamente è rivolto un po' a un pubblico, diciamo, eterogeneo, no? E Io direi, a proposito di donne che hanno cambiato il mondo, volevo leggervi l'ultima storia. Beh, visto che siamo una radio. Visto che siamo una radio. E noi la usiamo molto lei, che a noi ci piace lei, ammettiamolo. E ci soprattutto sentiamo bene quando la ascoltiamo. Non potevamo che leggere la storia di Nina Simone. Exactly. E poi soprattutto direi, siamo una radio, mettiamo musica, perché non leggere Nina Simone? Esatto. E direi che poi magari ci ascoltiamo pure un pezzone. Esatto. So, break a leg. Dunque, Nina Simone, cantante. Nina era una bambina orgogliosa e molto dotata. A 3 anni, mentre era in chiesa con la mamma, si arrampicò senza farsi notare sulla panca dell'organo e imparò a suonare in un inno. Quando aveva 5 anni, il datore di lavoro della madre si offrì di pagarle delle lezioni di piano e Nina iniziò a studiare da pianista classica. Si impegnava molto, lavorava sodo e aveva un talento straordinario. A 12 anni diede il suo primo concerto. I suoi genitori erano seduti in prima fila, ma furono costretti a cedere il posto a degli spettatori bianchi. Nina si rifiutò di iniziare a suonare finché i suoi genitori non furono di nuovo in prima fila. Nina riversava la sua passione nella musica e non sopportava il razzismo. Voleva che tutti i neri fossero fieri e liberi, che abbracciassero i loro talenti, che pensassero liberamente. Ecco perché scrisse canzoni come Brown Baby o Young o Gifted and Black. Nina Simone sapeva quanto il razzismo facesse soffrire i neri e voleva che trovassero forza con le sue canzoni. La cosa peggiore di questo tipo di pregiudizio, diceva, è che per quanto ti senti ferita e arrabbiata, il pregiudizio alimenta le tue insicurezze, i tuoi dubbi. Cominci a pensare, forse non sono abbastanza brava. Nina decise di coltivare il suo talento, anziché la sua paura, e divenne una delle cantanti jazz più famose del mondo. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You who might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Your love and I don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. There's no love for nobody love is Okay, se acabó. Signori, signore e signori, okay. Questa era Reggaeton, Il violatore eres tu. Mi sembrava una canzone adatta, visto. Come, scusa? Io eres tu? Il violatore eres tu. Ok. Ho capito, eres tu. Una sbarbellata, hai capito? Interessante. Bene ragazzi, sono le 18:17 e Giulia ci, ciao, darà un altro bel consiglio ribelle di lettura. Ovviamente, prego. Siamo tutti educatrici. Un consiglio ribelle. O professoressa, di conseguenza ve le dovete peccare queste cose, mi dispiace. A voi. E siete pure obbligati a riascoltarci tutto. Vai Giulia. Vai Giulia, te. Ok, ok. No, perché sentivo, siamo in collegamento Zoom, ogni tanto ci sono dei blocchi, quindi speriamo che mi sentiate bene. E perché appunto, come dicevo prima, vi chiamo da Edimburgo, infatti il mio consiglio sarà di letture in inglese per tutti quei bambini e quelle bambine che vogliono anche imparare un pochino di inglese o migliorarlo, perché magari lo sanno già e possono avvicinarsi a letture di libri bellissimi, con anche delle illustrazioni incredibili, che parlano dei temi appunto di diversità, di integrazione, di uguaglianza. Allora, l'artista di cui vi parlo è uno scrittore e un artista, e lo trovate come Ed Veer o Ed Vere, proprio se volete digitarlo online. E un bono. Scritto proprio... Scusate. Eh? Niente. E gli ascoltatori hanno sentito tanto. Ah, ok. Perché io veramente faccio fatica ogni tanto a sentire tutte le conversazioni. E, allora, lui ha scritto diversi libri veramente bellissimi, ma vi volevo parlare dell'ultimo che ha scritto, che si intitola How to be a Lion, quindi come essere un vero leone. E questo libro è stato scritto... dopo vi dico un pochino la trama, ma questo libro è stato scritto a seguito delle elezioni del 2016, delle elezioni americane, quindi a seguito della salita al potere di Trump. Questo libro vuole essere una narrativa contrastante a quello che è passato per le televisioni americane e poi anche ovviamente europee di tutto il mondo, che era la voce grossa di Trump, fondamentalmente, il fatto di voler sempre urlare, di essere un di voler dimostrare la supremazia bianca, di essere anche un gran misogino, insomma, tutto quello che sappiamo di Trump. E lui con questo libro ha voluto dare voce ad un'altra narrazione, ad un'altra narrativa, dicendo che anche se il tuo aspetto, ad esempio, è quello di un leone, tu puoi essere diverso e puoi contrastare la mascolinità tossica che circonda, insomma, la nostra, che è perversa nella nostra società e di cui anche qua in radio abbiamo parlato qualche settimana fa con Gasparrini. Quindi adesso vi racconto brevemente la trama del libro e poi sentiremo lui leggere la poesia verso il finale del libro e in inglese, così potete sentire anche la sua voce. Il video integrale del libro letto in inglese ve lo metteremo poi a disposizione sui nostri meravigliosi canali Instagram. Ricordiamo le trattino basso ribelli trattino basso Zam e niente, quindi grande. Adesso vi racconto un pochino questa storia. Purtroppo non potete vedere le illustrazioni, ma se andrete poi a vedere il video vedrete che sono veramente spettacolari. Allora, brevemente, c'è questo leone che si chiama Leonard e lui è diverso da tutti gli altri leoni, perché lui non è aggressivo, a lui non piace fare la voce grossa, ma soprattutto a lui non piace mangiare gli altri animali. Eh sì, è così, Ivna, è una tenerezza. No, solo di sentire, io voglio sto libro sul mio scaffale, veramente. Non avete idea di quanti cuori ha fatto Ivna in questa puntata? Cioè, perché non abbiamo una telecamera nascosta, ma Ivna ha pianto, ha fatto così cuori. Lei è fresca. Si è commossa, è freschissima. Ma guarda, ma io lei la capisco, perché io ieri ho ascoltato questa... la narrazione di questo, la lettura di questo libro da parte di Ed, cioè, mi sono venuti i brividi, veramente, mi sono commossa. Comunque, Leonard a un certo punto incontra Marianne. Marianne è una papera, Little Duck, e in teoria un vero leone dovrebbe mangiare le paperelle, ok? Ma lui invece, infatti qua ho davanti a me l'immagine di Marianne che è spaventatissima perché la si capisco. Vede davanti un leone e pensa, oddio, adesso questo mi mangia. Invece Leonard non la mangia, perché dice, ma io non voglio mangiarti, voglio essere tuo amico. E praticamente loro iniziano una storia di amicizia, perché? Perché sono legati dalla passione per la poesia. Quindi tra un ruggito e un quack, loro scrivono poesie insieme. No. Io adoro questi libri. Meraviglioso. Meraviglioso. Finché ovviamente a un certo punto il branco dice, Leonard, guarda che qua c'è qualcosa che non va bene, perché tu sei un leone, devi essere senza paura, devi mangiare gli altri animali. Allora Leonard è veramente scosso da questa cosa, perché lui non vuole mangiare la sua amica Marianne, e quindi insieme a Marianne si mettono a pensare ad una poesia per spiegare questo concetto agli altri leoni. Adesso facciamo una cosa ipertecnologica, cioè io condividerò il mio audio da Zoom e sentiamo Ed che legge la poesia che Leonard dice agli altri leoni. Vai. Allora, speriamo funzioni. Sì, si sta muovendo qualcosa. They were ready. Leonard took a deep breath. I'll say this quietly. I needn't roar to be heard. I can be a friend to a bee or a bird. You said I must change. I must chomp, Marianne. But chomping your friends is a terrible plan. Let nobody say just one way is true. There are so many ways that you can be you. If there must be a must, then this we must try. Why don't you be you, and I will be I? Some say words can't change the world. Leonard says, if they make you think, then maybe they can. Is there just one way to be a lion? I don't think so. Do you? This book. Ci siamo? Ok, sì, spero ci si siamo. Sia sentito sì, sì. bene. Sì. Che bella adesso voce faccio... che ha questo sì, uomo. Infatti consiglio veramente di andare di cercarlo semplicemente su Google e poi cercare i video, perché lui ha letto diversi dei suoi libri. Proprio durante l'anno scorso, per avvicinarsi anche ai bambini, aiutarli durante la pandemia. Wow. Allora vi dico brevemente in inglese quello che ha detto. La traduzione ovviamente non è un granché rispetto all'originale, però fondamentalmente vi dice così. Leonard dice agli altri leoni, ve lo dico in modo molto tranquillo, io non sono cresciuto per fare parte di un branco, io voglio essere amico di un'ape e di un uccellino, voi dite che io devo cambiare, che io devo mangiare in un sol boccone Marianne, l'amica paperetta, mangiare i propri amici non è una cosa bella. Nessuno dovrebbe dire agli altri come dovrebbero essere. Ci sono tanti modi diversi per essere noi stessi. Se ci deve essere una regola, allora questa scusate, mi sono persa nella mia traduzione, sto traducendo al momento. C'è traduzione simultanea anche abbiamo. Sì, traduzione simultanea, perché ogni volta che la traducevo veniva diversa. Se proprio ci deve essere una regola, allora dovrebbe essere questa, che tu sei tu e io sono io. Direi. Questa è la poesia che hanno messo su insieme Leonard e Marianne. E poi il libro continua e dice, molte persone dicono che che le parole non possono cambiare il mondo. Leonard invece dice che se le parole ti fanno pensare, forse possono anche cambiare il mondo. Allora, la domanda è: c'è un unico modo per essere un leone? Ecco, secondo me no. E secondo te? E il libro finisce con questa domanda. Cavolo, ma è spettacolare. No, davvero. Bella. Davvero, davvero. E quindi io consiglio veramente a chi anche vuole approcciarsi magari un po' all'inglese, sono libri molto semplici, hanno delle illustrazioni bellissime. Oltre a questo ci sono anche altri libri che parlano di tematiche di diversità, c'è anche esempio Mr. Big, era questo, lui era troppo grande, nessuno lo accettava perché lui era diverso e alla fine grazie alla sua musica è riuscito a, insomma, a farsi accettare nella comunità, quindi le persone sono andate oltre all'apparenza e l'hanno apprezzato per le sue qualità. Quindi consiglio, poi condivideremo i link di avvicinarsi anche a una lettura, appunto, a una letteratura inglese per bambini, perché secondo me è anche un buon modo per imparare la lingua. L'inglese. Sì. Bene, prof, grazie. Non si figuri. Ma si figuri. Molto, no, molto veramente bello, sempre, sempre meno. Meno male che stiamo andando in questa direzione, che ci sono sempre più persone che vogliono creare nuove tipologie di racconto, perché secondo me è fondamentale sì. Vedere proprio questa... per andare in una nuova direzione e comunque anche educativa, esatto. Perché questo in realtà è un metodo anche di educare alla diversità, un metodo per educare anche a farsi delle domande, perché alla fine noi abbiamo delle conoscenze, delle impostazioni, di conseguenza andando a leggere anche nuove tipologie, nuove forme, ci andiamo a fare qualche domanda e magari a chiederci ma qual è la verità? Sicuramente. Vabbè, che sono, ma infatti penso che comunque queste narrazioni si avvicinano moltissimo anche agli adulti, cioè non devono essere relegate semplicemente al mondo dei bambini, perché anche una persona, io veramente l'altro giorno poi ho ascoltato altri libri letti da lui o comunque anche da altri autori, e consiglio veramente anche agli adulti insomma di esplorare il web per queste cose, perché sono contenuto, cioè, parlano a tutti. Sì, i contenuti ci sono. Sì, ma è proprio è una cosa generica, infatti, questa. Cioè... Ma possiamo anche andare, per esempio, a trovare un Gianni Rodari che andava a fare. Guarda, mi hai tolto le parole di bocca perché volevo lui. Proprio citare Gianni Rodari. Sì, stavo pensando al caro Gianni. Alla fine anche lui arriva da molto tempo fa, eppure. Lui un po' andava a distruggere un po' quella che era la forma canonica di narrazione, tipo mi ricordo anche la dare spazio all'errore, insomma tutte queste cose, insomma. Meno male che si va sempre più verso una letteratura anche per giovanile di questo tipo più che altro. Sicuramente. Sì, secondo me questo, diciamo, chiamiamolo nuovo panorama letterario, cioè stavamo pensando a quando parlavamo di questa puntata, ma le generazioni anteriori, anche la nostra magari, non hanno avuto necessariamente accesso a questo tipo di rilettura, no? Di essere insegnati alla diversità o comunque al rispetto per l'altro. E invece la nostra Sofì di 10 anni già ci legge tutti diversi, ma tutti uguali. Esatto. Siamo tutti bambini diversi, ma siamo tutti bambini uguali. Secondo me anche grazie a un certo tipo di lavoro e di sensibilizzazione, perché alla fine purtroppo dobbiamo anche riconoscere che all'interno delle strutture scolastiche purtroppo non si è andato verso questa direzione, ma insomma c'è ancora tanto lavoro da fare. Basta pensare anche quando si fanno le lezioni ai libri sussidiari, insomma sono un po' anche sessisti, oggi ti leggo nella mente anche. Sessisti, razzisti, insomma c'è insomma una grande forma di discriminazione, c'è sempre questo purtroppo devo dirlo, maschio bianco che di ceto medio Che è il riferimento del mondo, anche, mamma mia. Sì, adesso poi neanche più di 100.000, insomma. Comunque mi viene da pensare che tutto ciò parte alla fine dall'educazione che ci viene data da parte della nostra famiglia, cioè sono i genitori che devono educare alla lettura i propri bimbi, e questi poi sono... educare come pratica di libertà, esatto, che tra l'altro è anche... No, guarda, io penso che io sono cresciuta circondata dai libri. E mio papà anche ha recentemente anche scritto delle fiabe per bambini, ricordandosi quelle che un po' raccontava a noi quando eravamo piccole, perché lui se le inventava. Bellissimo. E quindi comunque penso che proprio si cresce in un ambiente anche dove respiri i libri dappertutto, impari a leggere fin da quando sei piccola, sicuramente cresci in un bel mondo, ecco. Ma avrai anche una capacità di lettura del mondo, esatto, differente, sì. Perché alla fine leggere tanto, avere anche vari punti di vista, significa anche poi avere altri tantissimi punti di vista nella vita, e di conseguenza non avere un pensiero univoco su un dato e avere la capacità anche di modificarsi. Noi non ci pensiamo, ma alla fine, cioè non ci pensiamo, ma se ci pensiamo, i giochi, i libri, sono tutte cose che ci hanno formato, che ci hanno fatto crescere, che ci hanno educato, ed è da lì che parte la nostra educazione. Sì. Ma anche semplicemente vedere i tuoi genitori che sono, cioè mio papà sul divano a leggere, mia mamma sul divano a leggere, cioè vedere anche proprio i tuoi genitori che leggono ti fa anche pensare, ah, ma forse allora è una cosa bella se lo fanno la mamma e il papà. Esatto. La voglio fare pure io. Esatto. Beh, poi io devo dire la verità, quando ero piccola mi dava molto fastidio, perché io sono già nata che, no? Volevo un po' spaccare i culi a tutto, insomma, e mi dava fastidio il fatto che non trovassi mai una storia tra quelle che leggevo dove io mi potessi identificare, perché alla fine io non volevo mai essere salvata da nessuno, cioè nel mio immaginario io ero cresciuta in mezzo agli animali e io vivevo con gli animali e volevo delle storie più legate a quello, e quindi io da ste principesse non mi ci identificato per niente, e così in realtà ho scoperto tantissime ragazze. Sì, ma purtroppo... E l'allontanamento anche alla lettura e alla conoscenza è anche dovuto, secondo me, a questo, perché anche alla fine anche la lettura è catarsi, e non potersi mai riconoscere è anche frustrante, quindi allontani proprio... Non so se Giulia ci hai sentite. Sì, vi sento, no, stavo proprio pensando che c'è l'importanza di leggere, che purtroppo in questo periodo spesso... nel mio confronto magari con persone che conosco, viene messo spesso in secondo piano, e invece è importantissimo proprio, cioè la lettura, le storie, anche io ad esempio in questo periodo ho comprato libri di scrittrici di origine africane, proprio per approcciarmi ad una letteratura diversa, anche un modo di scrittura diversa, perché ovviamente c'è un modo di narrare diverso, sì. Interessante, non volevo ripetere diverso. Anzi, è molto bello, perché in realtà in questo modo potremmo imparare di più verso le altre culture, anche verso altre abitudini, modi di vivere, e conoscendo in questo modo non avremmo poi più questa paura della diversità, che poi dove noi pensiamo sempre che tutto il mondo sia casa nostra, no? E quindi poi abbiamo paura di tutto quello che è diverso. Esatto, abbiamo paura del diverso. Ci infatti spaventa. Tornando a Ed, che conosco anche personalmente, gli ho scritto prima della puntata, lui era ben felice che noi raccontassimo dei suoi lavori. Lui tra l'altro durante la pandemia ha fatto non solo dei laboratori di lettura, ovviamente organizzati a distanza in streaming, ma ha fatto anche dei laboratori di disegno, perché non soltanto la lettura, ovviamente importante, non soltanto le parole, ma anche il disegno. E uno dei suoi grandi motti è: io ho continuato a disegnare perché gli adulti smettono di disegnare. È vero. E invece fa, io volevo continuare a disegnare come quando ero bambino, quindi perché smettere di disegnare anche se non sei un artista professionista, ma prendi in mano, cioè, prendi, esatto, Ivna mi sta facendo vedere i suoi disegni, così, anche se non so, cioè, disegna, scrivi, dai, leggi. Ma anche la dimensione del gioco, io devo dire che sono una persona che ama giocare, infatti mi dicono, Andrea, tu sei un'eterna diciottenne. Grazie. Va bene. Io mi vado la vita. Incentivare questa cosa, esatto. Perché perdiamo contatto con questo nostro lato bambino, che è super creativo, risolve i problemi. Risolve i problemi. Capito? In relazione col mondo. Ed è da soluzione, non da problemi. Esatto. C'è un bambino latente in noi, continuamente, che vive con noi. E ogni tanto va tirato fuori. Ma è anche solo un modo per esprimersi. Ogni tanto anch'io prendo la penna, disegno malissimo, cioè io sono una, proprio una capra. Beh, però ragazzi, fa niente. Comunque da qui si potrebbe aprire tutto un altro ambito dell'educazione, che è quello poi dove mi ci ritrovo a lavorare tutti i giorni, da educatrice, lavorando anche nella disabilità, lavoro anche nella disabilità, con i quali, con i disabili io realizzo laboratori di arte, no? E sono disabili che vanno dai 20 ai 60 anni. Beh, loro sono totalmente trasparenti, quindi quando gli metti in mano un pennello e una matita non hanno limiti, non hanno nessun giudizio, non hanno il pregiudizio, prendono e vanno. Noi dovremmo prendere veramente esempio da loro. Per me sono praticamente... io li guardo, sono io che imparo da loro, cioè io gli faccio fare dei laboratori di disegno, ma sono loro che insegnano a me. Ma perché siamo noi ad aver perso il contatto con noi? Esatto, sì. Esatto. E qua vi lancio una canzone che è Feeling Myself di Nicki Minaj, perché dobbiamo andare in chiusura. E poi ci salutiamo. Comunque grazie dell'ascolto a tutti e tutto. Adesso ascoltiamoci Feeling Myself. Yo B, perché stiamo sforando, raga. Let's go. Feeling myself, I'm feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling myself. I'm with some hood girls looking back at it, and a good girl in my tax bracket. Got a black card and less sex habit. These Chanel bags is a bad habit. I do balls, Dale Mavericks. My Maybach, black matted. Bitch never left, but I'm back at it. And I'm feeling myself, Jack Rabbit. Feeling myself, back off, cause I'm feeling myself, Jack off. He be thinking about me when he wax off. Wax on? National anthem, hats off. Then I curve that nigga like a bad horse. Let me get a number two with some Mac sauce. Or on a run tour with my mask off. I'm feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling Change the game when that digital drop. Know where you was when that digital pop. I stopped the world. Male or female, it make no difference. I stopped the world. World stop. Carry on. Kitsy on fleek. Pretty on fleek. Pretty gang, always keep them niggas on geek. Biting through Texas, feed him for his breakfast. Every time I whip it, I be talking so reckless. He said, damn, Nicki is tight. I said, yeah, nigga, you right. He said, damn, babe, you so little, but you be really taking that pipe. I said, yes, daddy, I do. Give me brain like NYU. I said, teach me, nigga, teach me. All this learning here is by you. I'm whipping that work. He digging that work. I got it. 36 to that real, thank you for that bounce, baby. Come get you some of that bounce, baby. I'm feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling cooking up the bass, looking like a killer. He just wanna taste, digging up my ego. Bitches ain't got punchlines or flow. I have both and an empire also. Keep getting gifts from Santa Claus at the North Pole. Today I'm icy, but I'm praying for some more snow. Let that ho ho, let that ho know. He in love with that cook. Why these bitches don't ever be learning? You bitches will never get what I be earning. I'm still getting plaques for my records, that's urban. Ain't gotta rely on top 40. I am a rap legend, just go ask the kings of rap. Who is the queen and things of that nature? Look at my finger, that is a glacier. Hits like a laser. Trippin' on that work. Trippin' off that perk. Flippin' up my skirt and I be whippin' all at work. Taking trips with all them keys. Car keys got bees. Stingin' with the queen bee and we be whippin' all of that D. Cause we dope girls, we flawless. We the poster girls for owlers. We run around with them bowlers. Only real niggas in my cowlers. I'm the big kahuna. Go let them whores know. Just on this song alone, bitches on her fourth flow. Ritorniamo. Sono le 18:42 e siamo arrivati ai saluti. Purtroppo dobbiamo lasciarvi, cari ribelli, ma prima di salutarvi io vorrei ricordare che domani, 1 marzo alle ore 21, non una di meno, Milano trasmetterà in diretta anche sul nostro canale. Quindi saremo, da quel che ho capito, saremo in doppia connessione, se si può dire. Cioè c'è il canale Non Una Di Meno, che è sempre abbiamoundominio.org, e si connette anche sul nostro. Adesso non so con quale tattica di regia, ma avverrà questa cosa. Ci tenete aggiornati sui nostri social, tanto pubblicheremo tutto e vi chiederemo anche di rimanere aggiornati in vista anche appunto dell'8 marzo, perché Non Una Di Meno appunto sta organizzando, ma sono già anche usciti vari programmi, non solo a Milano ma ovviamente in tutta Italia. E appunto questa puntata del primo sarà dedicata al sex work. Esatto, e alla Sex Work is Work è il titolo. Sì. Quindi ascoltate e seguiteci. Va bene ragazzi, io direi di ringraziare di nuovo Sofì, la piccola Sofì, che sarà sempre con noi nelle puntate che avverranno una volta al mese, dedicate ai bambini e alle bambine di tutto il mondo. Piace dire di tutto il mondo, perché dobbiamo essere sarebbe bellissimo, le ribelli international, cioè ribelli del mondo, unitevi, le ribelli del mondo. E ora direi che lanciamo l'ultima canzone, vi salutiamo, buona cena, buona settimana, settimana arancione, ci aspettiamo per il nostro appuntamento del tè domenicale. Ciao Giulia. Ciao, bye bye. E niente, ciao, grazie a tutti. The last song ciao. Is Pain Health di Nina Krevitz. Ciao a tutti.